Se mi mettessi a seguire una persona qualunque, anche se irreprensibile, prima o poi scoprirei vizi privati, abitudini di cui non andare fiero, piccolezze e meschinità. C'è del marcio nella vita di ognuno di noi. E non solo in Danimarca. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Il protagonista di questa storia è Paolo. Paolo ha 36 anni. Vive in provincia di Vicenza, in un paesino di 6.000 abitanti, che si chiama Montecchio Precalcino. Paolo suona il trombone nella banda del suo paese e tifa per la Juventus. Possiede un'auto a metano perché si risparmia ed è appassionato di meteorologia, perché è sempre meglio sapere che tempo farà domani. Questa è la storia di una leggerezza che ha compiuto e che lo ha portato a pochi centimetri dall'abisso. Sono le 16:04, questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Quando Paolo è uscito di casa questa mattina pioveva. Ma lui sa già che a breve il tempo migliorerà. Succede spesso, nelle prime giornate di aprile. Ma soprattutto succede quando un anticiclone atlantico si avvicina al nord-est di questa penisola. Il treno è appena partito e lui ha già controllato 3 carrozze e fatto 4 verbali. A Paolo non piace dare le multe e appena può fa finta di niente. Fa finta di non vedere i biglietti non obliterati, oppure fa finta di non accorgersi di quelli che rimangono chiusi in bagno per tutto il viaggio. Il suo collega di oggi si chiama Pattuelli e non gli sta per niente simpatico. Ci ha già lavorato un paio di volte e non fa che lamentarsi del governo, delle ferrovie, dei passeggeri, pure di sua moglie. E in più Pattuelli puzza di sudore. Paolo non ha voglia di parlargli, però non ha niente da leggere. Il treno rallenta, si ferma nella stazione di Mira. Paolo salta giù e va verso l'edicola. Gli piacciono i fumetti. Dovrebbe essere uscito il nuovo numero di Tex. L'edicola è piccola ed è piena di gente. Lui cerca il suo fumetto, lo prende, paga i 3,50 € e torna verso il treno. Sta leggendo il titolo del numero di questo mese quando sente il soffio delle porte che si chiudono. Il treno parte e Paolo non fa niente. Non comincia a correre, non si mette a urlare, non prende nemmeno il cellulare per chiamare Pattuelli perché gli sta troppo antipatico. Abbassa lo sguardo su Tex e sul titolo: La vendetta di Ventopossente. Paolo ha 36 anni, sta tenendo in mano un fumetto, sta venendo meno al lavoro che fa diligentemente da 13 anni e il titolo del fumetto è La vendetta di Ventopossente. Si sente un cretino e a guardarlo da fuori effettivamente lo sembra, eh? Fermo sul marciapiede di una stazione vestito con la divisa da capotreno e un numero di Tex in mano. Perderà il lavoro? No, forse no. Forse se dice che è sceso dal treno per un'urgenza non lo licenzieranno. Avrà solo un richiamo formale. Sì, però quale urgenza? Non può neanche dire che doveva andare in bagno perché sul treno ce ne sono quanti ne vuoi. Una leggerezza. Ecco che cos'è. Una leggerezza, niente di più. Cioè lui non voleva parlare con il suo collega e ha fatto una cosa che non si doveva fare. Ma quante volte, senza nemmeno pensarci, facciamo una cosa piccola che non va fatta e ce ne dimentichiamo un attimo dopo? Forse è proprio per quello. Forse perché succede molto raramente di dover pagare le conseguenze di un piccolo gesto fuori dalle regole, che non valutiamo mai i rischi. I rischi che sono connessi ad una svista o ad un piccolo azzardo. E invece Paolo i rischi ora li sta calcolando tutti. Perdita di punti in graduatoria. Meno giorno di riposo, trasferte più lunghe e in caso mobilità o peggio, cassa integrazione. Si vede già a casa con sua figlia Aurora che torna da scuola e chiede alla mamma perché papà rimane in pigiama tutto il giorno. La sua vita rovinata per un fumetto. Si sente un cretino, però improvvisamente si sente anche più leggero. È come se si fosse liberato di un peso enorme. Guarda la coda del treno che si muove verso Padova e che scompare dietro a un palazzo. E si accorge che è uscito il sole. Visto? Aveva ragione. Lo sapeva che sarebbe arrivato il bel tempo. È normale in queste giornate di aprile. E l'aria ora è tiepida. Lui fa un respiro e si sente bene. Gli squilla il cellulare in tasca, lo tira fuori. Sul display appare il nome di Pattuelli. Lo lascia suonare. Inizia a ridere e se ne frega. Se ne frega di lui, del treno e del richiamo dell'FS. E per la prima volta lo dice proprio ad alta voce. Ma chi se ne frega? E si sente anche più coraggioso ora, quasi più forte. Si incammina verso le panchine, quelle in fondo alla banchina, che sono sempre vuote perché tanto sono troppo lontane. Si toglie la giacca, che il sole comincia ad essere caldo. Si siede, apre il suo Tex e comincia a leggerlo. Sono le 16:08, questa è Radio 24, ve l'ho già detto, io sono Matteo Caccia pure, però non vi ho detto che questa storia, la storia di Paolo, me l'ha raccontata lui stesso. Paolo è un ascoltatore che allo scorso Salone del Libro di Torino, quando eravamo là con Vendo Tutto, mi ha incontrato dopo la diretta, abbiamo chiacchierato un po' e non so come mai gli è venuto di raccontarmi questa sua storia. La storia poi ha un lieto fine, se invece di fine terribile si poteva parlare altrimenti, nel senso che Paolo si è letto un pochettino Tex, poi ha fatto una cosa molto semplice, ha pigliato un taxi, è andato alla stazione successiva, il treno non era ancora arrivato, è salito e praticamente nessuno se n'era accorto. Però in quell'attimo lì, in quell'attimo in cui ha visto il treno che si allontanava dalla stazione, lui si è sentito a tanto così dall'abisso. Nella sua testa sono partite immagini, proprio un film vero e proprio, la sua vita finita solo perché era sceso da un treno a pigliare un fumetto. Questa storia mi è tornata in mente e ve l'ho raccontata oggi, mi è tornata in mente ieri sera perché ho fatto una cosa che probabilmente non andava fatta, però ormai cose che non vanno fatte ne sto facendo tutti i giorni, ve le racconto pure, quindi continuo a raccontarvela anche oggi. Però mi è venuta in mente proprio perché ieri a un certo punto mi sono trovato in una di quelle situazioni in cui dici, ecco, sono a 3 centimetri dall'abisso, adesso mi scopro ed è finita. 800240024 349 238 6666. L'avrete fatto, no? Cioè, vi sarà capitato, provate a pensarci un secondo, vi sarà capitato di fare, ad esempio al lavoro, un piccolo errore, magari anche un grosso errore, e ve ne siete accorti e per 5 minuti o 5 ore o 5 giorni, quello che è stato, avete detto adesso mi beccano ed è finita, mi licenziano, mi devo trasferire, c'ho una famiglia che va a pezzi, tutto per una stupidaggine che ho fatto. Poi invece a pochi centimetri dall'abisso avete rimediato, nessuno si è d'accordo e siete andati avanti tranquilli. Oppure una roba più piccola, anche veramente non deve essere messa in crisi tutta la propria vita, basta che rimaniate senza benzina, ad esempio col motorino, vi è successo magari quando avevate 16 anni, siete al buio, siete in mezzo alla campagna e pensate che basta, che la vostra vita finisce lì, che non riuscirete a riprendervi, che non sapete come fare benzina, che non riuscite ad arrivare a casa a piedi, che dovrete giustificarlo ai vostri genitori, che vi piglieranno per il culo a vita tutti quanti i vostri amici, semplicemente perché siete rimasti senza benzina in campagna una notte, a pochi centimetri dall'abisso. 800240024. Per esempio, succede, a me è successo una volta, ho fatto un corso di vela di quelli che si fanno ai villaggi turistici, sapete, tipo una lezione che dura un'ora e ti dicono questa è la vela, questo è il timone, questa è la corda per tirarla, e tu ti senti già un esperto, e all'epoca con la mia fidanzata di quel tempo, vieni tranquilla che so andare, siamo usciti e ovviamente si è alzato il vento e non si tornava più indietro. Ecco, lì un po' nei suoi occhi, un po' nei miei, secondo me l'abisso si è visto. Episodi come questi, roba che per un attimo vi ha fatto pensare, ho fatto la cazzata. 800240024, oppure per gli sms 349 238 6666. Maya mi scrive: 14 anni, primo amore, mi veniva a prendere col motorino. Ovviamente i miei non sapevano nulla. Un giorno nel tornare a casa incrocio mia mamma e portava una maglietta vistosissima, tutta colorata e a pois, tipo il Gran Premio della montagna. Era la fine. Idea, tiro fuori dallo zaino del mare una t-shirt verde, la infilo nel pianerottolo, entro e mia mamma: ah, ma allora non eri tu, mi sembrava di averti visto sul motorino. Marco, vabbè, Marco racconta del cellulare. Cellulare, già solo l'esistenza del cellulare ti fa stare a pochi centimetri dall'abisso. Un giorno dimentico a casa il cellulare e a casa c'era la mia ragazza. L'ho fatto suonare fino a quando non mi ha risposto e l'ho tenuta al telefono tutto il tempo per scaricare la batteria. Grazie al codice PIN installato non ha potuto riaccenderlo. 800240024 349 238 6666, a pochi centimetri dall'abisso. Ieri la mia storia con Natalie e con Italo è continuata e io a tanto così dall'abisso ci sono arrivato. Potrei chiamarla la maledizione del weekend in montagna. Ora scopro cosa vuol dire fare l'amante, ma l'amante che soffre, mica quello che ogni tanto è capitato a tutti, che tutto sommato significa avere un sacco di tempo libero e nessun obbligo tipo di andare a teatro insieme. No, no, stavolta sapere che Natalia è insieme a un altro mi fa veramente stare male. L'unica fortuna è che vedo la fine del tunnel, che so che lei lo lascerà. E già vedo la nostra vita insieme. Non so, forse sono un pazzo, ma la vedo così. È che sono una persona positiva. E non è stato certo con cattiveria che ho deciso di pedinare Italo al ritorno del weekend in montagna ieri sera. con tutti quei film che ho visto, tutte le serie televisive poliziesche, ho imparato come si fa a pedinare qualcuno. Dunque, innanzitutto devi avere una macchina che ti consente di appoggiare sul cruscotto un grosso bicchiere di plastica che contenga del caffè caldo, un hamburger da mangiare e poi qualcuno con cui lamentarti perché è venuto a darti il cambio troppo in ritardo. Ora, io la macchina ce l'ho, è nuova, è perfetta. L'hamburger lo posso sostituire con delle patatine pie, credo che alla fine valgono uguale. Il problema è che non ho il caffè nel bicchiere di Starbucks e manco il cambio. Allora ho fatto così, ieri sera mi sono preparato il thermos di tisana al finocchio e mi sono avviato alla postazione sotto casa di Natalie. Sapevo che sarebbero tornati dalla montagna e che lui l'avrebbe accompagnata a casa, vorrei pure vedere. Ero curioso di vedere cosa facevano e dove sarebbe andato lui dopo, con che faccia, con che atteggiamento. Mi sono vestito pesante perché non potevo mica tenere la macchina sempre accesa e mi sono portato dietro un libro. Ho parcheggiato sotto un lampione per avere la luce sulle pagine, quelle che volevo leggere. Mossa geniale, peraltro, per la copertura. D'altra parte non contavo sul fatto che loro si aspettassero di essere spiati. La mia visuale sul portone era perfetta. Non restava che attendere il loro ritorno e cercare di capire meglio. Sì, perché dopo che mi sono innamorato di Natalie, facendo la parte di Michela Pesca, non so se vi ricordate, ho capito che il suo fidanzato, che lei mi dice che sta mollando ma ama ancora, è chiaramente un porco in cerca di avventure. Il fatto è che io voglio più prove. Voglio che Natalie lo molli definitivamente. Non sarà facile. Però in fondo, ognuno di noi ha qualcosa da nascondere. Qualche segreto che preferisce rimanga tale. Cioè, se mi mettessi a seguire una persona qualunque, anche irreprensibile, prima o poi scoprirei dei vizi privati, delle abitudini di cui non va fiero, piccolezze, meschinità. D'altra parte c'è del marcio nella vita di ognuno, e non solo in Danimarca. Cioè, magari niente di veramente grave, ma qualcosa che ti farebbe fare brutta figura, e a me, come a molti, quello basta. Insomma, ero lì a fare il riassunto. Il riassunto di tutti i motivi che mi avevano spinto a congelarmi le chiappe in mezzo a una strada, al buio, d'inverno, da solo, in un giorno di festa. Quando finalmente ho visto spuntare il SUV di Italo. Quello da cui chattava con me, cioè con Michela Pesca, quando avevo preso la sua identità, insomma. Chiudo il termos con la tisana al finocchio con molta cura, perché se cade in macchina macchia, però non stacco mai gli occhi da loro. Faccio anche un paio di fotografie con la digitale, ovviamente con il massimo dello zoom, perché secondo me rimarrà sulla pellicola qualche particolare che a occhio nudo non riesco a percepire. E meno male che ho visto Blow Up di Antonioni. La prima cosa che voglio controllare è il modo in cui si salutano. Ecco, quello è fondamentale. Dopo alcuni giorni di intimità, quello del saluto è un momento chiave. Il problema è che vedo tutto confuso perché nella retina mi sa che ho ancora la luce che mi proiettava la pagina del libro, quello che stavo leggendo. E poi sono troppo lontano, ma dov'è che mi sono messo? Mica devo fare delle riprese di una partita, questa è una soap opera, dovrei avere solo primissimi piani. Strizzo gli occhi e scatto fotografie, ma vedo solo le sagome delle loro teste. C'è però una cosa che mi sembra di capire, che non si sono baciati. Non è che ne sono sicuro, però mi pare che non si siano neanche avvicinati per salutarsi. Questa è una buona notizia. Un po' come la velocità dei convenevoli. In un attimo lei è sul portone, bellissima nella sua tuta da sci. Vorrei andare da lei, ma devo seguire Italo, che non aspetta nemmeno che lei sia rientrata, e riparte. Io accendo il motore senza nemmeno mettermi la cintura, che è una cosa che mi fa impazzire. Non mettere la cintura mi fa sentire nudo, vulnerabile. Non so, mi mette a disagio, ma mi metto a seguirlo. Mentre cerco di capire quale distanza tenere, mi squilla il telefono. È nata lì. Faccio il superiore, però comincia a sudare. Insomma, sono emozionato, le chiedo dov'è, come sta. Lei mi dice che è ancora in montagna. Non capisco perché mi menta, ma non fa nulla, dovrei insultarlo. Ma ne sono innamorato, quindi la bacerei. È un po' strana. Al telefono mi dice che c'è qualcosa che non va. Allora io mi invento che non ho l'auricolare, che sono in auto, sono uno attento a queste cose. La richiamo magari dopo, se non la disturbo. Lei mi dice di sì, mi chiede scusa e riaggancia. Sbatto il telefono sul sedile del passeggero, come se non fosse lei il centro della mia vita, ma Italo, agente immobiliare che gira con il SUV per le strade di Milano. E ci gira piano, come uno squalo, senza meta. Invece che andare a casa a riposarsi, lo vedo benissimo che ha il telefono in mano. E sta già parlando da un po', e quindi non con Natalie, perché lei era al telefono con me. Lo penso mentre faccio una frenata, solo che sto inchiodando, la frenata è un po' lunga, mi accorgo che sono sul pavé, che lui è già fermo all'incrocio, che sto per andargli a sbattere contro. E lo faccio. Lo tampono. Piano, eh? Senza troppo rumore o stridore di gomme, però lo prendo dentro. Sono un deficiente. Scendo e mi chiedo che cosa diavolo ci diremo. Certo, lui non mi conosce, però, insomma, è comunque una figura da pirla. Altro che i film americani. Scendiamo, ci guardiamo un po' negli occhi. Non ve lo descrivo perché sono di parte, ovviamente, però è abbronzato e si capisce anche al buio. Lui guarda la macchina e me, che mi sto scusando. Nessuno si è fatto nemmeno un graffio. Gli chiedo se vuole fare la constatazione amichevole e lui mi risponde che mi ha già visto da qualche parte, che secondo lui mi conosce. Io taccio, però lui insiste, mi chiede come mi chiamo. Io vorrei mentire, il problema è che se poi dobbiamo tirare fuori i documenti è un casino. Allora gli dico il mio nome e lui lì si illumina. Ma ecco chi sei. Tu sei Matteo Caccia, io ti ascolto sempre alla radio. E poi sta lì a guardarmi. E io invece che lì vorrei essere in cima al Cervino durante una bufera di neve. E lui continua a fissarmi e poi mi dà un buffetto sulla guancia e mi dice: ma no, Ciccio, figurati, cosa me ne frega me del graffietto. Prossima volta però, occhio al pavé. E mi punta contro un dito indice che io spero sia carico a salve. E mentre rientra in macchina senza nemmeno guardarmi lo sento dire: tu, Matteo Caccia, sei un tipo coraggioso. But it was not your phone but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no. E allora si perde. In questo caso, come racconta Woody Allen in Match Point, è una questione di fortuna, invece in altri probabilmente è una questione di capacità o di arguzia. Però se vi siete trovati mai veramente a tanto così dall'abisso e poi tutto si è risolto e improvvisamente si torna a sorridere, 800240024 oppure 349-238-6666, ad esempio con il fuoristrada con il foglio rosa bloccato nel fango, devo abbandonare a mezzanotte la macchina e parto a piedi in mezzo ai boschi. Ho sbagliato file, Antonio. Ho sbagliato file ed ho trasmesso a tutti i miei clienti i dati fatturato e nominativo di tutta la mia zona cliente per cliente. Un casino, sudore freddo. Poi per fortuna ha voluto che la posta elettronica non avesse spedito nulla, salvo all'ultimo istante. Un'immersione notturna bellissima, Mar Rosso anni 80, non controllai la quantità di ossigeno. A momenti ci rimanevo, Benito da Roma. Ce n'era un'altra invece che diceva, l'ho perso, che stava facendo un'immersione... eccolo qua, no, ecco, di notte sulla costa della Corsica, in vacanza da sola con il ragazzo, romantico, decidiamo di andare sulla spiaggia a dormire. La macchina arriva alla spiaggia, arenati dentro la sabbia con le ruote di una Twingo. La fortuna è stata che un francese con una Jeep è passato di lì e ci ha tirato fuori dai guai. Prima invece mi è arrivato un messaggio su Facebook. Francesca mi descrive la situazione. Perù, caldo infernale. Faccio l'autostop con un amico. Dopo 12 ore di camminata ci tira su un camionista. Dopo un tot di ore il mio amico autoctono dorme come un sasso. Io mi appisolo e mi sveglio con il camion che è fermo. Buio pesto. Fuori è il posto di guida vuoto. Sento un rumore. Guardo dal finestrino e si avvicina il camionista alla porta con un coltellaccio tipo mannaia in mano. Pronto, Francesca? Pronto, ciao. Allora, tu, facciamo così, tu sei in Perù. Okay. È notte. Il camionista non è sul posto di guida. Vi ha caricato? Quanto tempo prima vi aveva caricato? Boh, fai conto un 4-5 ore, eravamo su ormai. Tu guardi fuori dal finestrino e cosa vedi? Allora, io vedo questo grosso, grosso energumeno che nel buio arriva con questo coltellaccio gigante in mano e si avvicina. E io mi sono cagata addosso. Vedi, guarda, mi hai tolto le parole di bocca, Francesca. Stavo per dirti, tu cosa hai fatto? Ti sei cagata addosso, immagino. Sì, perché io guardavo il mio amico che ronfava e vedevo già i titoli del giornale. Mentre lui dorme. Italiana viene ammazzata da un camionista mentre faceva l'autostop. E mi ha in gran maglia. È stato fantastico. E invece alla fine? E lui è arrivato, mi ha parlato sorridente, poi in spagnolo mi fa: si erano allentate le corde del camion. Quali corde del camion? Era un camion, quindi aveva le corde dietro per legare il carico, e quindi era andato lì a sistemare due cose, a tagliare. Ok, lì diciamo, la mannaia in mano. Lì più che trovarti a pochi centimetri dall'abisso hai capito proprio male, però sull'abisso ti ci sei trovata. Ma Francesca, chi è che sta urlando invece dietro al telefono? Sono i miei bambini, la Zoe e Teo, che stanno facendo un casino infernale. Quanti anni hai, Francesca? Io ho 35. Però come hai la voce di una bambina di 18? Sarà il passare il tempo col Teo e la Zoe, credo. No. Che lavoro fai, Francesca? Lavoro in comune, a Venezia, per un sito internet. Cioè, sei di Venezia tu? No, sono di Treviso, però sì, sono Treviso, Venezia. E cosa fai? Il sito internet del comune di Venezia? Sì, della cultura. Ah, e cosa c'è di interessante a Venezia in questi giorni, segnalato dal sito del comune di Venezia? A parte l'acqua alta, niente, onestamente. Francesca, senti, abbiamo una straordinaria stagione di teatri. Benissimo, va bene, ti ringrazio molto per il tuo entusiasmo. Francesca, salutami il Teo e la Zoe, come li hai chiamati tu. Va bene, ciao, buona giornata. Mille. Grazie, adesso ciao. La borsa. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in inverno e siamo di notte. Che poi probabilmente non è nemmeno così vero, perché probabilmente siamo in autunno e siamo nel tardo pomeriggio, visto che è una foto di questi giorni. Sta nevicando tantissimo in questa foto, e in realtà c'è ancora un po' di luce, quella luce giallastra che ha il cielo quando nevica. È una strada di un paese, direi, più che di una città. Ha delle file di luci nuovissime, di quelle per cui poi i sindaci dei piccoli comuni si beano: però abbiamo rifatto tutte le luci del paese, abbiamo rifatto anche il piano stradale, abbiamo rifatto anche il marciapiede. La strada però è sporchissima, quindi il sindaco mi sa che non ha ancora mandato fuori di spargisale e nemmeno quelli che puliscono dalla neve. È una strada che va verso il centro di un paese. Sulla destra delle piantine appena piantate, sulla sinistra un recinto, delle case gialle in fondo. Direi che a occhio e croce è un posto del nord Italia. Federica Vitali, 37 anni. Mentre la gente ancora dorme nelle case innevate di Voghera, io sono qui. Era Voghera... Non era sera, era l'alba, però dobbiamo constatare che abbiamo un folto pubblico di ascoltatori da Voghera, forse anche perché la nostra Vittoria Mussini è di Voghera e quindi sparge la voce, o probabilmente, perdonatemi, è lei che ha un folto pubblico e quindi ha il suo gruppo di fan che segue qualsiasi programma curi, perché tu curi anche altre cose, no? Dimmi un'altra cosa che curi, Vittoria, che non lo sa, la Rosa Purpurea, come no, che è un programma che va in onda la domenica, sera, pomeriggio, sabato, va in onda sabato, pomeriggio, sera, perfetto. Vai in onda alle 18 e qui mi fermo. Però andate a vedere la foto di Voghera, che sembra un paesello, invece è una città, sul sito di Radio 24, alla pagina Io sono qui. E a questo proposito, visto che la cosa che notavamo è che praticamente da quando abbiamo cominciato, cioè da circa settembre, oltre che le foto di tutta l'Italia, dell'estero anche, ma soprattutto dell'Italia, stiamo fotografando il passaggio delle stagioni. Mancano ancora pochi giorni alla fine dell'anno. Mandateci la foto del vostro paese o della località in cui siete in questo momento, che stia piovendo, che se ci sia la neve, che ci siano 25 gradi come era Catania lo scorso fine settimana. Io sono qui, @radio24.it, mi dite dov'è e chi siete voi e dove siete, ovviamente, se siete lì. 800240024 e invece 349-238-6666, a pochi centimetri dall'abisso. Avevo 22 anni, militare in polizia, mi sentivo un eroe. C'è una mareggiata forte a Fregene, dei ragazzi in difficoltà, mi butto, vado a prenderli. Un minuto dopo alzo lo sguardo e vedo appena la spiaggia lontanissima. Panico, partono i pattini e si ribaltano. Ho pensato, è la fine. Raffaele, visto che qua direi che non è stata per niente la fine. Avevo 17 anni. La mia giacca di pelle nell'armadio, dentro un pacchetto di sigarette con 4 spinelli pronti. Io nella doccia tranquillo, quando sento mio padre che mi urla: Raffi, esco, prendo la tua giacca di pelle. Io sbianco, esco dal bagno, nudo, tutto bagnato, sgocciolavo a terra, mi sono messo di mezzo a lui e alla porta dicendo: papà, no, la giacca no, ci tengo e devo metterla io. Raffaele. Forse è lo stesso di prima. 800240024, andiamo subito. Mirko, mi dicevano che poi deve scappare. Pronto, ciao Mirko. Pronto? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Senti, tu ci hai scritto. Ciao. Sono andato nel fossato con l'auto rubata a mio padre. Non si è danneggiata e mio padre non l'ha mai saputo. Non l'ha mai saputo o poi gliel'hai detto? No, no, non lo sa neanche adesso. Sono passati quasi 20 anni ma non l'ha mai saputo. E diciamoglielo allora, Mirko. No, no, anzi, ascolta Radio 24 anche lui. Vabbè, quindi Mirko è un nome falso? No, no, è vero, però... Che macchina però era? In questo momento era una Peugeot 505. Scusami, hai detto 20 anni fa? Sì. Dai, ma vuoi che non ti perdoni? Non si è fatto nemmeno nulla, ormai sei un uomo, c'hai dei figli, c'hai una moglie. Sì, è vero, è verissimo tutto quanto, però è meglio che non lo sappia. Ma com'è andata? Eri ubriaco? Ho un'immagine. No, no, assolutamente. Io quando avevo... 16-17 anni gliela prendevo per andare a fare i giretti in campagna perché abitavamo. Quindi non avevi la patente, Mirko? No, cioè no, proprio un delinquente. Ho cominciato a 15 anni, sì. A fare il delinquente o a guidare? A guidare. Praticamente quando lui non c'era io prendevo la macchina. Sì. Andavo a farmi giri in campagna, sulle strade sterrate, così. E un giorno c'era l'erba bagnata e piano piano la macchina mi è scivolata nel fossato. Solo che quei fossatelli sono privi d'acqua e sono abbastanza bassi. Per cui la macchina piano piano si è appoggiata sul fianco destro e io sono andato a chiamare il vicino di casa col trattore, ovviamente. Esatto, senti, Mirko, ma la Peugeot 505 è quella un po' da zingaro che adesso si è vede solo? È quella lunga lunga squadratona. Ah certo, quello che adesso solo quelli che tornano a Tunisi ce l'hanno. No, no, neanche più loro. Solo la Golf GTI loro. Ma però Mirko, allora era una macchina di tutto rispetto. Mirko, direi che più che a pochi centimetri dall'abisso, direttamente nel fossato. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Questo è il mio preferito, Flavio Giallo-Adoro. Gara in piscina. Chi resiste di più sul fondo? Io ho vinto perché sono svenuto e mi hanno tirato fuori all'ultimo momento. Pronto, Flavio? Proprio così. Proprio così, però. Tu, di è, cosa? È un fatto che abbiamo ricordato proprio 15 giorni fa perché abbiamo fatto un'altra una riunione degli ex allievi. Sì. Perché questo qui è successo nell'80, uh-huh, che festeggiavamo la maturità. Sì. E allora ci siamo trovati a casa di un amico. E ovviamente gara in piscina di apnea, chi non l'ha fatta? Sì, allora una bella iperventilazione, una bella iperventilazione di 3-4 minuti. Che non so se tu sai, poi porta anche un po' di giramenti. Sì, beh, perché è quella che respiri fino a fondo per riempire tutti i polmoni. Senti, siamo andati sotto e io sono rimasto sotto. Beh, immagino, per cui, ok, Flavio, hai vinto, dai, basta, vieni fuori, Flavio! Allora, quello che era fuori, sì? Guardava e diceva, Cribio se resiste, Per fortuna c'era un bagnino, che era lì alla festa anche lui, sì? E fa, ma da quanto è sotto? Cribio, 5 minuti e 30, ma siete deficienti! Ma neanche Pellizzari in apnea statica sta 5 minuti e 30. Allora è venuto giù, si è buttato, mi ha tirato fuori, io mi sono svegliato. Però subito, cioè, pronto soccorso proprio? No, io mi sono svegliato in ospedale e dopo ho saputo che sono arrivato proprio lì sull'abisso. Beh, direi che sì, proprio più che a pochi centimetri dall'abisso, svenuto nell'abisso. Flavio, grazie mille. Cioè, basta iperventilazioni. Ciao, grazie. Ciao. Di lavoro organizzo voli charter e incentive per grosse, ricche e importanti aziende. Qualche anno fa, per problemi burocratici, la sera prima di uno di questi voli, ancora non avevo ottenuto l'autorizzazione ad atterrare all'isola d'Elba. Significava avere passeggeri in giro per l'Italia e una manifestazione che andava a monte. Era veramente il baratro. Sono partita per Roma all'alba, pronta a tutto per ottenere l'autorizzazione. Ce l'ho fatta grazie ad un espediente, ma sono stata davvero... sul pochi centimetri dall'abisso. Ciao Dina, andiamo da Jacopo, perché Jacopo ha scritto: aereo dirottato a Miami, l'aereo va giù e la hostess ci fanno mettere il giubbotto di salvataggio, urlano tutti, ci fanno alzare e mettere in fila davanti alla porta, poi c'è il comandante della cabina e dice aspettate un momento e alla fine abbiamo ripreso quota. Pronto Jacopo? Sì, ciao, buon pomeriggio. Ma come aspettate un momento? No, aspetta un attimo, aspetta. È andata proprio così. Aspetta. Non ce l'aveva con noi, ce l'aveva con la hostess ovviamente, però ha detto sì, aspettate un secondo, forse ce la facciamo. Poi insomma ce l'abbiamo fatta, altrimenti. Di cosa si trattava? Ma non si è mai saputo, era sotto Natale. Quello che ti posso dire, che è un indizio, è che io l'ho visto entrare questo comandante prima, sì, della partenza del volo, con una bella boccia di spumante in mano. Non so se questo in qualche modo ha influito, diciamo, sul suo guidare poi l'aereo, ecco. Però niente, è andato giù, io stavo dormendo, mi ero addormentato, mi sono svegliato per le urla, ho guardato fuori e c'era il mare, che era nero, ovviamente, essendo notte. e ero con mia nonna all'epoca, che mi accarezzava la testa e mi diceva: non ti preoccupare, torna a dormire se ci riesci. Ovviamente la cosa mi ha impanicato ancora di più. Ti credo. E poi niente, tutti a urlare, la hostess si è fatta alzare, abbiamo messo i giubbottini, quelli che finalmente si è spiegato a cosa servono, perché se caschi in acqua almeno non affoghi. Esatto. E poi è uscito, piano piano, forse non serve, aspetta che forse ce la facciamo. Esatto, forse ce la facciamo, è andato esattamente così. Jacopo, grazie mille. Un abbraccio. Ciao, alla prossima. Ciao. Una volta mi hanno detto, una roba simile è successa a una mia amica che mi ha detto: ho avuto veramente paura, mi sono sentito sul baratro quando ho visto le hostess piangere. Grazie a lui, grazie a Tiziano Bonini, a Vittoria Mussini, a Roberto Scaltritti e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?